Penta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Devo dire una puntata, come molti di voi già sanno, avendo ascoltato i GR della giornata e i promo in questi giorni, puntata particolare per noi perché la radio oggi compie 18 anni e quindi siamo maggiorenni come radio. Sarà anche l'occasione, lo dico perché abbiamo pensato a come, senza diventare stucchevoli e retorici e parlarci addosso, come ricordare, al di là di quello che è previsto nel palinsesto, parlo del programma Focus Economia, come ricordare un compleanno senza diventare appunto retorici, e abbiamo deciso di andare a guardare nella chiave di questo programma, con un piccolo approfondimento, che Italia era quella del 99. Ora sappiamo tutti che i dati economici erano migliori, non ci vuole molto ad arrivare a questo. Ascolteremo anche il GR24, un pezzetto, non tutto, di quella prima edizione, perché alcuni dei temi erano già sul tappeto e ahimè non sono molto cambiati, sarà anche l'occasione per fare un punto su cosa è successo non tanto in questi 18 anni, non ci metteremo un'intera puntata forse a affrontare i titoli, ma per capire che cosa si è mosso, quali indicatori economici. Poche settimane fa l'Istat ci ha detto che il potere d'acquisto degli italiani è tornato ai livelli degli anni 90. Ahimè, non avremmo voluto festeggiare in questo modo, diciamo con questi dati, i 18 anni della radio, ma tant'è. Invece, per quello che riguarda gli altri temi di carattere economico-finanziario, al di là di una borsa che oggi è in flessione, devo dire, più che netta, soprattutto per i titoli bancari, c'è la Banca Centrale Europea che ha pubblicato un'appendice alle linee guida sulla gestione degli NPL, cioè dei non performing loans, delle sofferenze bancarie, che prevede svalutazioni automatiche sulle sofferenze che matureranno a partire dal 2018, e poi ha detto che verranno fornite ulteriori considerazioni nei primi tre mesi dell'anno prossimo sulla materia. È probabile che queste alzino l'asticella, cioè irrigidiscano ulteriormente l'asticella dei non performing loans, delle sofferenze bancarie. Siccome le banche italiane ne hanno ancora tanti, è vero che sono in calo, ma ne hanno ancora tanti, questo è andato subito a penalizzare i titoli bancari. Nello specifico, Banco BPM perde il 6%, UBI Banca il 3,60%, Banca Generali meno 2,80%, ancora BPER meno 2,50%, UniCredit meno 2,50%, Unipol meno 2,40%, Generali meno 2%, Intesa pure c'è del 2%, Banca Mediolanum l'1,90%. Devo dire, appunto, non si salva nulla nel settore bancario. Chi oggi è positivo viene da altri settori: Luxottica più 1%, Recordati più 0,50%, Prismian più 0,20%, come Campari. Tra i titoli che oggi sono in calo, anche Enel meno 1,40% e Telecom meno 1,35%. Nel giorno in cui ha debuttato in borsa Pirelli, e ne parleremo nel corso della trasmissione, e così come affronteremo anche un'iniziativa interessante dal punto di vista di quello che si chiama mecenatismo culturale, che è stata presentata poco fa a Venezia, e mi riferisco al fatto che il Gruppo Generali ha presentato il progetto The Human Safety Net, in sostanza un'iniziativa a favore delle persone più vulnerabili e svantaggiate nelle comunità di tutto il mondo, e poi un investimento, ecco perché parliamo anche di mecenatismo culturale. Il Gruppo Generali si è impegnato a restaurare tutto l'edificio delle procuratorie vecchie, che per chi conosce Piazza San Marco è un intero lato, diciamo, di Piazza San Marco, ed è uno degli edifici più noti e amati della città, oltre che essere storicamente il quartiere delle Generali, che da sempre, in quanto compagnia assicurativa dell'impero asburgico e poi italiana, aveva in Venezia, oltre che in Trieste, un centro di comando, un centro anche operativo molto importante. Di questo parleremo. Per quello che riguarda gli sms e WhatsApp, il numero è sempre 349-238-6666. L'altro tema che toccheremo lo trovate oggi sul Sole 24 Ore in apertura, lo spesometro. Siamo al caos. Adesso non vorrei essere in questo momento in un commercialista, perché quando tutto sembrava quasi risolto sui monitor di molti studi professionali è comparsa la famosa ricevuta che non ti aspetti, cioè in due parole annunciava file scartato, tutto senza motivazione. L'agenzia delle entrate ha avvisato la SOGEI del nuovo intoppo, che questa volta ha coinvolto i cosiddetti gestionali, cioè i software acquistati dai professionisti per eseguire le comunicazioni IVA. Ci sono intere società che si occupano di queste, delle quali fanno anche pubblicità, li ascoltiamo tutti i giorni. Parleremo di questo caos, perché questo è un ennesimo errore, e dopo l'ennesimo vertice del Ministero dell'Economia e Finanze con l'amministratore delegato di SOGEI si è deciso che tutti coloro che si sono visti scartare gli invii effettuati tra le 17 di lunedì e le 10.30 di ieri senza l'indicazione dell'errore commesso dovranno rinviare i dati. E ripeto, non è la prima volta che si verifica un intoppo. Ne parleremo, cercheremo di capire anche che cosa è successo, parlando anche con i commercialisti, oltre che sul resto. Dicevo, 349-238-6666 per sms e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta sulla pagina Facebook. Vedo che ringrazio tutti per gli auguri di buon compleanno. Grazie a tutti voi, e cerchiamo però appunto di utilizzare anche questa occasione, siamo tutti più vecchi, l'Italia è sicuramente diversa, ma per ricordare in sostanza perché e che cosa si intende a dire quando si dice che tutti gli indici economici sono tornati a livello di fine anni 90. E grazie anche a chi sta approfittando pure del compleanno di Radio 24 per insultarci, ma devo dire che se tutti gli ascoltatori che ci insultano fossero così assidui come quelli che lo fanno tutti i giorni, perlomeno in questo programma che Dio manda in terra, diciamo, partecipano anche loro al dato d'ascolto. Quindi benvenga anche a chi ci insulta ma ci segue. Andiamo con le notizie in breve. Per quello che riguarda l'Unione Europea, la Commissione Europea sta stringendo le viti sui pagamenti fiscali dei colossi del web. Allora, da un lato la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Irlanda alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per non aver recuperato da Apple i 13 miliardi di euro di aiuti di Stato illegali, come chiesto, lo ricorderete, dalla Commissione Europea nell'agosto dell'anno scorso. L'Irlanda doveva recuperare questi aiuti perché è lo stesso tema del Lussemburgo su Amazon. Scusate di nuovo. È lo stesso tema del Lussemburgo su Amazon. E cioè, l'Unione Europea non dice alla società privata devi pagare, dice allo Stato dell'Unione Europea devi riscuotere questi soldi. Gli accordi che hai fatto, io li chiamo sottobanco, diciamo, gli accordi che hai preso per agevolare il fatto che loro venissero a pagare le tasse, avessero la sede fiscale a Dublino piuttosto che in Lussemburgo, non vanno bene. Poi altro tema è, al netto di questi accordi, se è possibile che le società del web continuino a dire che fatturano dove hanno la sede fiscale e non pagano le tasse dove fatturano veramente, cioè dove fanno i ricavi, in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, perché il regime fiscale sarebbe sicuramente più svantaggioso. Quindi Bruxelles ha chiesto a Dublino ha deferito l'Irlanda alla Corte di Giustizia. Perché Dublino non gli ha chiesti questi soldi? Perché vuole tenersi Apple. Ho capito, però non funziona esattamente così. E nello stesso tempo ha chiesto al Lussemburgo di recuperare 250 milioni di euro di vantaggi fiscali non dovuti, definendo questo un comportamento illegale, e qui perché ha consentito ad Amazon di pagare molte meno tasse di altre aziende, ossia tre quarti dei suoi profitti non sono stati tassati grazie a un accordo fiscale. Attenzione, non è che non sono stati tassati perché in Lussemburgo, lì sarebbero stati tassati ma in maniera più bassa dell'Italia, non sono proprio stati tassati perché l'accordo con Lussemburgo era ulteriormente vantaggioso rispetto già alla fiscalità del Lussemburgo. Andiamo all'Italia. Il Senato ha dato via libera allo scostamento di bilancio richiesto dal governo con le note di aggiustamento del DEF, ossia per il 2018 allo 0,3%, e poi Gentiloni ha chiesto di non dilapidare i risultati raggiunti, lo ha fatto nel suo intervento durante le celebrazioni di San Francesco ad Assisi. La sfida del lavoro che riguarda tutta l'Italia, ma in particolare i giovani, il mezzogiorno, le donne. In questi ultimi anni abbiamo recuperato buona parte dei posti di lavoro che avevamo perso negli anni terribili della crisi. Ma è chiaro che c'è ancora molto da fare e questo impegno deve continuare. Questo governo e il Parlamento hanno la responsabilità di non dilapidare i risultati raggiunti e di collaborare anche da punti di vista diversi per il bene comune. È una responsabilità alla quale la politica non si può sottrarre. Chiedo scusa per la qualità dell'audio, ma è stato preso in condizioni difficili ad Assisi. Il ministro Padoan, che ha ribadito la crescita si rafforza, i rischi si allontanano dopo, questa è la sua replica in aula al Senato al termine della discussione generale sulla nota di aggiornamento al documento economico finanziario. È un dato di fatto che in base a indicatori più diversi ma che si rafforzano a vicenda, il quadro dell'economia italiana sta decisamente migliorando. Dal punto di vista della crescita, dal punto di vista dell'occupazione, i numeri sono chiari e anche la qualità del lavoro è chiara. Dal punto di vista della finanza pubblica, che si sta gradualmente ma decisamente consolidando, il che per un paese ad alto debito come il nostro, continuamente sottoposto al vaglio dei mercati, prima ancora che delle istituzioni internazionali, è un elemento fondamentale. Crescita che si rafforza in quantità e in estensione per settori e per regioni del Paese, e rischi finanziari che si allontanano sia dal punto di vista della gestione del debito pubblico sia dal punto di vista della riparazione profonda che è avvenuta e che continua ad avvenire del sistema bancario, che ha sofferto profondamente della grande recessione che ha colpito il Paese, la più grande recessione dal dopoguerra. E poi sempre Padoan, l'ottimismo non ci ferma ma occorre accelerare lo sviluppo. Questo ottimismo che viene citato, e non vedo cosa ci sia di male, in fondo in passato siamo stati citati di essere ottimisti e abbiamo ottenuto dei risultati pessimisti rispetto a quello che effettivamente si è verificato. Questo ottimismo non deve essere una ragione per fermarsi, al contrario, deve essere una ragione per accelerare lo sviluppo, renderlo strutturale, robusto, approfittare del momento ciclico favorevole a livello europeo e globale per trasformare questa crescita che è ancora in parte ciclica in crescita permanente e duratura, con tassi di crescita che già sono superiori a quelli che ancora prima della crisi finanziaria caratterizzavano l'economia italiana. Su questo tema oggi anche di nuovo il presidente Confindustria Vincenzo Boccia ha detto: non avevamo grandi aspettative sulla legge di stabilità ed è confermato, le risorse non sono alte, ma concentriamole, evitiamo di fare errori, e siamo preoccupati anche in funzione di una campagna elettorale che vi possa essere una deriva su una politica solo di domanda e non per aumentare la competitività delle imprese. E poi anche l'intervento shock sui giovani, lo ha ricordato appunto il presidente Confindustria Boccia a margine della giornata del credito organizzata oggi dall'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. Ma lo abbiamo detto da tempo, non avevamo grandi aspettative, mi sembra un DEF che va nel sentiero della prudenza, non smonta le riforme passate, che è già un fatto positivo, e comunque è nella linea di quanto aveva già anticipato il ministro Padoan, un sentiero stretto in cui si comincia, diciamo, a dare un'attenzione giusta e doverosa al debito del Paese, che deve scendere in rapporto anche, diciamo, a un modo di interloquire con l'Unione Europea. Quindi non avevamo grandi aspettative, confermate, le risorse non sono alte, l'importante è continuare ad andare avanti, il sentiment dell'economia è positivo dal punto di vista di export, dal punto di vista di crescita, continuiamo su questa strada, facciamo il possibile che possiamo fare, con risorse non elevate evitiamo di fare errori anche in funzione di una campagna elettorale in cui siamo preoccupati di una deriva su una politica solo di domanda e non di potenziamento della competitività delle imprese, ma questa è un'altra partita. Chiaramente. Non ne abbiamo viste molte dal dato numerico, adesso però cerchiamo di capire qual è la proposta del governo, perché abbiamo letto, diciamo, alcune cose, quindi non abbiamo elementi informativi per potervi dire, diciamo, qual è il nostro pensiero. L'idea nostra era una proposta shock di inclusione dei giovani, però adesso vediamo un attimo il governo che cosa, diciamo, indica al di là delle risorse dal punto di vista quantitativo, perché ci sono anche possibilità, diciamo, non convenzionali per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro. Vediamo. Ancora due notizie, poi passiamo, diciamo, a un raffronto di questi 18 anni, complice, ripeto, il compleanno di Radio 24. L'Istat, i prezzi nel secondo trimestre, a questo punto arriva la stima preliminare, più 0,3%, ma sull'anno meno 0,1%, quindi l'inflazione non c'è, e anzi, se vogliamo, i prezzi sono anche leggermente in calo. Il tasso di variazione acquisito per il 2017 è appunto meno 0,1%, e poi invece il piano dell'ANAS, 29 miliardi e mezzo di investimenti nel periodo 2016-2020, di cui quasi 23 e mezzo di nuove appaltabilità, sono coperti per circa 21 miliardi e mezzo, e 6 miliardi invece sono di lavori sono in fase di attivazione e già in corso di esecuzione. Questi numeri presentati dal presidente dell'ANAS, appunto Gian Vittorio Armani, il piano quinquennale, ripeto, su 29 miliardi e mezzo, 21,4 più 6,1, cioè 27 e mezzo sono già stati finanziati. Ascoltiamolo al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. È un piano completamente finanziato, dei 29 miliardi 28 sono concreti e non promesse, che vuol dire poter programmare e pianificare la progettazione di tutte le opere e quindi rilanciare, ovviamente con le capacità che poi la macchina organizzativa riesce a dare, tutte le opere in contemporanea. Questo è per la prima volta anche un investimento politico nel rilancio delle infrastrutture che utilizza ANAS come uno strumento di creazione di valore e non di distruzione. Gli interventi previsti riguardano tutta la penisola, come più o meno è distribuito tra nord, centro e sud, equivale a dire quali sono le zone di criticità a cui avete dato precedenza nel piano. È un piano principalmente che rilancia le infrastrutture al sud, oltre il 50% degli investimenti sono tra sud e isole, è principalmente concentrato sulla manutenzione, quindi sulla cura delle infrastrutture che ci hanno lasciato i nostri padri, diciamo, essendo il nostro paese già largamente infrastrutturato è una cosa importantissima, e poi è un piano che guarda al completamento degli itinerari, evitare di lasciare pezzetti di opere realizzate ma non completate, questo è l'obiettivo del piano, pensare a completare interi itinerari invece che pezzetti di infrastruttura in modo cencelliano come era stato fatto in passato. Questa è la notizia in breve, adesso meteo e pubblicità, ancora due minuti di pazienza, e poi con una voce che è una voce che ascoltiamo ancora, ma che al tempo era, diciamo, la voce che ci aiutava a comprendere l'economia quando nacque Radio 24, quando nacque anche questo programma. Vediamo di fare un raffronto, vedo già molti messaggi, non troppo deprimente. Certo che nel mezzo di questi 18 anni ci siamo beccati anche la più grande crisi del 29, però di questo non abbiamo obiettivamente responsabilità. Dopo il meteo, 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Happy birthday to you. Happy birthday. President. Happy birthday to you. I have a dream that one day on the Red Hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, vabbè, abbiamo usato una mitica Marilyn Monroe, 19 maggio del 1962, al presidente Kennedy per farci gli auguri. E il sogno invece è di poter festeggiare altri 18 anni, non dico con la stessa conduzione, ci mancherebbe, ma insomma che la radio possa festeggiare altri 18 anni anche senza lo stesso conduttore. 18 anni fa, allora... Nel ragionare su chi poteva raccontarci, tenere assieme in un tempo molto breve 18 anni di storia economica, beh, ci è venuto in mente chi ci dava una mano in quei primi giorni di Focus Economia, di Salvadanaio, insomma dei programmi, dei GR, a capire l'economia. Lui ha fatto carriera in questi 18 anni, che carriera, però noi lo trattiamo ancora come un ex della radio, e grazie quindi al direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi, al tempo giornalista, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Luca. Buonasera e tanti auguri. Grazie. 18 è un numero bellissimo. It's a magic number, direbbero in pubblicità. Allora, vediamo di essere seri, di dare una sintesi che solo tu puoi darci, perché da sempre studi i numeri dell'economia, prima appunto al Sole 24 Ore e anche Radio 24 e poi nel Centro Studi di Confindustria. Una chicca, la voglio far ascoltare, il primo GR di Radio 24, perché ci sono anche degli elementi che ci interessano, con l'editoriale dell'allora direttore Elia Zamboni. Questa è Radio 24, buon ascolto. Sono le 7. GR 24. Al nord, emergenza sicurezza a causa della criminalità straniera. Elezioni in Austria. Gli ultranazionalisti di Haider diventano il secondo partito del paese. Prima giornata di lavoro per Luigi Castagnetti, nuovo segretario del Partito Popolare. Francia, imprenditori in piazza contro le 35 ore. Queste le principali notizie del primo GR di Radio 24 che si presenta oggi agli ascoltatori. Sentiamo dal direttore Elia Zamboni le caratteristiche e gli obiettivi della nuova emittente nazionale. Abbiamo iniziato le trasmissioni senza cerimonie e senza proclami. Lo abbiamo fatto semplicemente con le notizie del nostro giornale radio, il GR 24. Continueremo a proporvi informazione sempre, 24 ore su 24, perché questa è la caratteristica, la carta d'identità della nostra emittente nazionale che oggi si presenta agli ascoltatori. Radio 24, nata dalla volontà e dall'entusiasmo di due editori qualificati e riconosciuti, quali il gruppo radiofonico Sper e quello editoriale del Sole 24 Ore, farà sempre informazione. In che modo? Tempestivo, oggettivo e utile. Sì, anche utile, perché ogni informazione è utile se ci rende partecipi di quanto avviene intorno a noi, se contribuisce a maturare in noi convinzioni e valutazioni, se ci aiuta a prendere quelle piccole e grandi decisioni cui siamo costretti ogni giorno. Una radio utile vuol dire una radio aperta. Voi tutti potrete dire la vostra nelle trasmissioni, potrete parlare con i nostri esperti e i nostri collaboratori. La nostra radio così diventerà anche la vostra, soprattutto la vostra. Una radio per tutti, Radio 24. In studio Alessandro Del Rico e Anna Migliorati, è tutto. GR24 torna alle 7.30, alla linea Giancarlo Loquenzi per la rassegna stampa. Allora, molte cose sono cambiate, la sigla non tanto, Anna Migliorati ancora con noi, altre persone invece hanno scelto altri percorsi professionali. Luca Paolazzi, mi ha fatto impressione, questa era una sintesi del GR, il GR durava 15 minuti, non potevamo fare tutto il programma su questo, Ma al di là dell'imprinting, come si direbbe, che ricordava l'allora direttore Lia Zamboni, mi ha fatto impressione notare che nei titoli avevamo il problema dei reati degli immigrati e della sicurezza, Haider che si affermava in Austria, e poi anche le tensioni di carattere politico e le preoccupazioni di carattere economico. Se uno poi se lo ascolta, è disponibile sul sito, vedrà tutte queste cose. Nel 99 le borse mondiali chiudono, il Dow Jones in rialzo del 24%, l'S&P del 18%, Parigi del 48%, Londra del 16%, Francoforte del 35%, Milano fa più 18%, Tokyo più 34%, il Nasdaq quell'anno fa più 81% e prepara poi la bolla delle dot-com del 2001, aggiungo io. L'economia italiana nel 99 PIL più 1,4%, anche in questo caso sotto, ben al di sotto della media europea. Tasso di inflazione all'1,7%, bassino, era il 2% nel 98%, tassi di investimento in crescita del 3-4% con l'edilizia che tornava a contribuire allo sviluppo degli investimenti. La domanda è molto semplice: qual è la cosa, da giornalista te lo chiedo, che spicca di più, che noti di più in questa carrellata di dati rispetto ad adesso, Luca? Sicuramente le notizie, diciamo così, politiche, perché hanno riflessi economici. Come dicevi tu, Haider in Austria e la questione degli immigrati. Le collego oggi non tanto perché sono, diciamo, in un certo qual modo ripetitive. Abbiamo, diciamo, un candidato cancelliere molto giovane in Austria, più o meno dello stesso partito di Haider. Se non ricordo male, ha 31 anni e più o meno sono gli stessi presupposti. L'immigrazione rimane, diciamo, un fatto importante, però quello che emerge è che questi 18 anni sono stati tali da segnare non tanto un'epoca di cambiamenti, ma, come ha detto Papa Francesco, un cambiamento d'epoca. Quello che è accaduto nel frattempo è stata la formazione di una nuova tecnologia i cui effetti futuri non possiamo nemmeno immaginare. Parliamo della digitalizzazione, internet che diventa internet delle cose, le cose che dialogano fra di loro, gli smartphone che allora non esistevano, eccetera eccetera, ma anche l'ingresso prepotente nel mondo economico, nel globo, di nazioni continentali come la Cina, che in questi 18 anni è passata da circa l'8% della quota di produzione manifatturiera mondiale al 33%, e quindi in un certo qual modo siamo di fronte a un mondo completamente diverso, rispetto al quale l'Italia non si è fatta cogliere preparata. Nel 98 uscì un libro intitolato Il volo del calabrone, che scrivemmo insieme a Fabrizio Galimberti, un'altra grande firma del Sole 24 Ore di Radio 24, e le ultime due paginette dicevano che l'Italia aveva appunto volato come un calabrone, cioè in un certo senso vincendo le leggi della fisica, perché un corpaccione grosso con ali piccole, ma che ora aveva di fronte a sé proprio le sfide della globalizzazione e, diciamo, delle nuove tecnologie, e che per vincere queste sfide avrebbe dovuto fare qualcosa che non aveva mai fatto prima, cioè essere nazione, essere il sistema, giocare in squadra. Forse stiamo imparando adesso? Punto di domanda. Dal lato delle imprese la percezione è positiva. Sì, stiamo imparando, però c'è voluta anche una crisi per imparare quella lezione. Come paese, la questione immigrati, la questione nuove tecnologie, la questione il presentarsi alle elezioni in Austria di un giovane, diciamo, fortemente conservatore, come accadrà adesso, richiama il fatto che c'è grande paura, grande tensione sociale verso il nuovo, non sappiamo qual è il futuro, non sappiamo qual è il futuro dei nostri giovani, dei nostri figli, e tutto questo porta a reazioni difensive, certo, rispetto, diciamo, al nuovo, e porta a rischi, quelli sono stati chiamati rischi politici, che si sono presentati con grande forza l'anno scorso, con la Brexit prima, con le elezioni di Trump poi, si sono stati attenuati con le elezioni politiche di quest'anno, fino alla Germania però. Allora, questo diciamo è il quadro che vedo. Oggi abbiamo un'economia che cresce in Italia e nel mondo. Siamo, diciamo, ancora molto indietro in Italia rispetto a quello che diciamo eravamo prima della crisi, tuttavia dobbiamo rimboccarci le maniche e imparare quella lezione che già si indicava, si capiva alla fine degli anni 90, ma che nessuno ascoltava. Non abbiamo imparato. Allora, devo dire che a me due cose hanno colpito. Uno, il PIL di quell'anno cresce dell'1,4%, che è praticamente la crescita di quest'anno, e anche l'inflazione più o meno viaggia lì. È successo di tutto, io sono d'accordo, ci sono fior fior di analisi sociologiche che ci spiegano come il consumatore, grazie agli smartphone, all'internet, alla rete, come ricordava Paolazzi, adesso sia in grado per la prima volta di scegliere tra offerte indipendentemente dal luogo in cui vive, quindi una rivoluzione anche dal punto di vista dell'accesso informativo nel rapporto domanda-offerta. Chiaramente la crisi ha messo in pressione anche alcuni consumi e bisogni indotti. Da lì la teoria che abbiamo più volte affrontato, la neosobrietà, quindi tu spendi ma dove vedi valore aggiunto, non spendi perché devi spendere. Quello che è noto, e vorrei dopo il traffico il commento di Luca Paolazzi, è che in Francia per esempio si discuteva, gli industriali erano preoccupati sulle 35 ore, cioè i temi poi erano già, come dicevi, sul tappeto. C'è voluto uno shock come quello del 2008 e poi di nuovo 2011-2012 per far capire a tutti che alcune cose che si dicevano, attenzione alle dimensioni di impresa, non è vero che piccolo è sempre bello, attenzione, parlo delle imprese in questo caso, ai passaggi generazionali, dovete guardare con attenzione, non basta lasciare le quote azionarie al figlio così come se fosse un'eredità, attenzione all'internazionalizzazione, tutte quelle cose, sì, da alcuni venivano capite, da molti, sì, venivano accettate ma poi non messe in pratica, perché tutto sommato l'economia di riffo di raffa un po' cresceva. E poi è arrivata invece la Cina nella WTO, è arrivato lo shock economico finanziario 2008. Vorrei capire da Luca Paolazzi, da un lato, che cosa abbiamo imparato, cioè forse a stare un po' meno da soli, si veniva da 20 anni di individualismo sfrenato, e a cercare di costruire delle reti, perché queste tempeste, queste rivoluzioni non le affronti da solo. Dall'altro però, sempre dopo il traffico, capire anche in questo panorama, se la frase che alcuni dicono, beh, siamo tornati al livello di fine anni 90, come potere d'acquisto, tutto sommato non si stava male negli anni 90, ha un senso, è una grandissima cavolata dopo il traffico. Faircom Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircom.com. Vi presenta Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, di nuovo in diretta dunque, Luca Paolazzi, abbiamo imparato un po' di più a stare assieme, a fare rete, come dite voi che studiate le imprese, le filiere, rispetto a quegli anni in cui i temi poi cadevano delle volte nel vuoto, e si può fare il ragionamento, beh, tutto sommato se siamo tornati al potere d'acquisto di fine anni 90, si viveva anche lì, non si stava poi così male. Dal punto di vista delle imprese sicuramente questa lezione è stata appresa, è stata appresa anche la lezione della globalizzazione, non da tutti, così come quella dell'innovazione, non da tutti, c'è, diciamo così, un nucleo piuttosto consistente di imprese che sono, diciamo così, plotone di testa, e però vediamo dietro un certo numero di queste imprese che stanno seguendo e stanno inseguendo quei modelli, il successo dei contratti di rete che ormai annoverano circa 15.000 imprese partendo da zero nel 2010 ci dice che c'è un salto di mentalità, E se intervistiamo gli imprenditori, è interessante sentire da loro che loro stessi dicono: una volta per condurre un'impresa valeva la regola un uomo solo al comando e essere, diciamo, in un certo qual modo il capo, prendere decisioni in solitudine. Adesso ti dicono che invece loro stessi imprenditori ti dicono che devi lavorare in team dentro l'impresa e devi valorizzare i lavoratori, quindi cambia il modo di pensare l'impresa, e questo, diciamo, che poi tutti lo facciano un altro paio di maniche, ma intanto la comprensione della direzione, questo è fondamentale, perché se non capisci questo non fai neanche nulla per andare nella direzione giusta. Detto questo, non abbiamo, secondo me, ancora imparato, diciamo, bene a valorizzare il capitale umano di questo paese. Abbiamo invece imparato che i mercati da soli non si autoregolano, hanno bisogno di politiche economiche, e che, diciamo, dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie escono vincitori e vinti, e però i vinti sono cittadini, e però i vinti non vanno lasciati da soli, vanno accompagnati, vanno aiutati, ovviamente in un modo condizionale, per cercare recuperare un progresso per tutti quanti. La questione del fatto se stavamo meglio quando stavamo peggio, diciamo in un certo qual modo, io cito un numero: dal 2000 a oggi nelle altre nazioni dell'area dell'euro, che non è diciamo l'area che cresce di più nel mondo, per usare un eufemismo, il PIL è aumentato del 24,4%, in Italia è dello 0,8%. Noi abbiamo perso due decenni fondamentalmente, e gli altri continuano ad andare avanti. Se noi stiamo fermi, non è che stiamo fermi, andiamo indietro. E questo è drammatico, non senza deprimere nessuno, come dicevi tu all'inizio della trasmissione. Quando scende il livello del PIL come è sceso, qualcuno che stava con la bocca sopra l'acqua e respirava ancora è finito sott'acqua. Certo. E questo è quello che è successo in termini di aumento della povertà, che adesso coinvolge giovani, persone che lavorano. Per questo, diciamo, non è giusto dire in fondo si stava bene allora, perché era un altro mondo, e se allora si stava bene in quel mondo, in questo, a questi livelli di economia, non si sta bene per nulla. No, anche perché poi, come abbiamo visto negli Stati Uniti e in Germania, anche i paesi che sono già tornati sui livelli pre-2008 lo hanno fatto con una diversa distribuzione del reddito. Ma comunque il dato che tu hai citato può chiudere così il programma. Adesso non volevo deprimere nessuno, ma è giusto ricordarsi che 18 anni non sono passati in vano, nel senso che appunto il paese c'è ancora, e la pattuglia di decine di migliaia di imprese che Paolazzi citava, che sono già ben collocate sui mercati internazionali, di quelle che lavorano nell'indotto, cioè, certo, e non l'abbiamo perso solo negli ultimi anni questo treno, attenzione, perché 2008 arriva 9 anni dopo, diciamo il 99 che stiamo celebrando. Ci siamo fatti trovare, voglio chiudere con la frase iniziale di Luca Paolazzi, impreparati agli shock, Cina nel WTO, e impreparati anche poi a uno shock che nessuno immaginava, ma noi eravamo più fragili. Allora, nell'augurare Luca Paolazzi di essere di nuovo in collegamento, non con me immagino, ma con il prossimo conduttore di Focus Economia, chiunque esso sia, però tu ci sarai fra 18 anni, grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria, che tornerà a essere nostro ospite per i temi, diciamo, congiunturali e tendenziali dell'analisi che fa il Centro Studi di Confindustria. Andiamo sul GR24 e poi Borsa, Pirelli che debutta in Borsa, ma anche e gli altri temi annunciati, spesometro e un investimento importante di carattere mecenatesco da parte delle Generali oggi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono le 18. GR24, il sole 24 ore. Sul DEF, voto responsabile del Senato, lo twitta Padoan. Catalogna, appello all'unità dal Parlamento europeo. Condanne per oltre 50 anni di carcere per il clan Spada. Ben ritrovati dalla redazione da Valeria De Rosa, la Commissione parlamentare antimafia farà un lavoro di controllo sulle liste dei candidati che saranno presentate in vista delle regionali del 5 novembre in Sicilia. La richiesta di un esame delle liste era stata avanzata dal presidente del Consiglio regionale Giovanni Ardizzone e dal candidato 5 Stelle alla presidenza Giancarlo Cancellieri. Sulla nota di aggiornamento al DEF c'è stato un voto responsabile del Senato, ora la legge di bilancio per crescita inclusiva e occupazione. È quanto scrive il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan su Twitter. Questa mattina Palazzo Madama ha dato via libera allo scostamento di bilancio e alla risoluzione della maggioranza. Il commento sul DEF del presidente di Confindustria Boccia. Non avevamo grandi aspettative, mi sembra un DEF che va nel sentiero della prudenza, non smonta le riforme passate, che è già un fatto positivo, e comunque è nella linea di quanto aveva già anticipato il ministro Padoan, un sentiero stretto in cui si comincia, diciamo, a dare un'attenzione giusta e doverosa al debito del Paese, che deve scendere in rapporto anche, diciamo, a un modo di interloquire con l'Unione Europea. Quindi non avevamo grandi aspettative, confermate, le risorse non sono alte, l'importante è continuare ad andare avanti, il sentiment dell'economia è positivo dal punto di vista di export, dal punto di vista di crescita, continuiamo su questa strada, facciamo il possibile che possiamo fare, con risorse non elevate evitiamo di fare errori anche in funzione di una campagna elettorale in cui siamo preoccupati di una deriva su una politica solo di domanda e non di potenziamento della competitività delle imprese, ma questa è un'altra partita chiaramente. Arriva una nuova proroga per il cosiddetto spesometro dovuta al malfunzionamento del sito per effettuare le operazioni online. Viene posticipato al 16 ottobre 2017, scritto in una nota del Ministero dell'Economia. Il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre dell'anno in corso. La candidatura dell'Unità Popolare, il partito della sinistra indipendentista catalana, sostiene che alla plenaria del Parlamento di Barcellona lunedì si proclamerà l'indipendenza e la Repubblica catalana. Lo afferma la deputata Mireia Boia, riconoscendo però che non c'è accordo tra i partiti indipendentisti su questo punto. Dal presidente del Parlamento europeo un appello all'unità. Sentiamo Tajani. Come la storia dell'Unione europea ci insegna, in democrazia l'unica strada da percorrere è quella di lavorare insieme per la concordia e l'unità. Nessuno ha gradito gli eventi accaduti domenica, ma le decisioni unilaterali, compresa la dichiarazione di indipendenza da uno Stato membro, sono in contrasto con l'ordinamento giuridico europeo e sono destinate a provocare pericolose divisioni. Da questo Parlamento parte un appello a sostegno di una riflessione serena e profonda che favorisca il dialogo in Spagna nel rispetto del quadro costituzionale, compreso lo Statuto dell'autonomia della Catalogna, e che restituisca la politica alle istituzioni. Condanne per più di 50 anni di carcere e conferma dell'aggravante del metodo mafioso. La quarta sezione del Tribunale di Roma ha condannato 7 persone ritenute facenti parte del clan Spada, una delle famiglie di spicco della criminalità di Ostia. Sono accusati di minacce, violenze, sfratti forzosi da alloggi popolari e una gambizzazione per affermare la supremazia del proprio clan sul territorio di Ostia. Tutto con l'aggravante del metodo mafioso. La stangata da 250 milioni di euro combinata dall'antitrust europeo ad Amazon. La società risponde a Bruxelles affermando di ritenere di non aver ricevuto alcun trattamento speciale dal Lussemburgo e di aver pagato le tasse in piena conformità con la legislazione fiscale lussemburghese e internazionale. Studieremo la decisione della Commissione, si legge in una nota, e valuteremo le nostre opzioni legali, tra cui il ricorso in appello. Il gruppo Campari ha siglato un accordo per cedere a 80 milioni di euro Lemon Soda alla danese Royal Unibrew AS. Il business venduto comprende le bevande gassate analcoliche a base di frutta, Lemon Soda, Oran Soda, Pelmo Soda e Mojito Soda e i marchi Crodo a esclusione di Crodino. Ed è tutto per questa edizione, adesso la linea torna a Focus Economia, noi ci risentiamo alle 19.00. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per parlare adesso di borsa nel 18esimo di Radio 24. Ringrazio tutti gli ascoltatori, anche quelli che insultano. Allora, sì, vabbè, nessuno è perfetto. C'è un vecchio detto: chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. Noi, siccome abbiamo fatto molto, secondo me, in questi 18 anni, avremo anche sbagliato molto. È più facile fare che osservare e criticare. Vecchio vizio italico, lo dico da alcuni. Allora invece grazie a tutti gli altri. Per quello che riguarda invece la borsa oggi, debutto di Pirelli, ma soprattutto brutta giornata per i titoli bancari. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sì, vuoi farci gli auguri anche tu? No. Auguri. Grazie. Meno 5,30, leggermente chiesti. Meno 5,30% il Banco BPM, meno 3,70 UBI Banca, meno 3% Banca Generali, meno 3% anche Biper. Unicredit meno 2,60, Unipol meno 2,70, Generali meno 2,20, e chiuderei qua. Tra l'altro ringrazio anche tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore che in questi anni hanno garantito la borsa in diretta, gli appuntamenti principali di borsa, non solo loro, e a Focus Economia, visto che ce l'abbiamo 18 anni. Chiudo con i ringraziamenti, le banche dopo la BCE. Sì, le banche oggi in Italia sono andate particolarmente male, questo perché è uscito un documento della BCE che la linea guida sulla copertura dei crediti in sofferenza a partire dall'anno prossimo. I crediti che saranno maturati dal 2018 dovranno essere coperti al 100%. Quindi perché sono andate giù le banche? Perché a questo punto gli analisti pensano che molti istituti possano anticipare dei crediti dubbi al bilancio del 2017, sì, di quest'anno, per non doverli coprire completamente. Quindi può darsi che i bilanci di quest'anno, in particolare i risultati degli ultimi tre mesi dell'anno dei principali istituti di credito, possano essere, certo, diciamo, inferiori alle attese. Ovviamente hanno pagato dazio soprattutto le banche che hanno maggiore, sono più esposti sui crediti in sofferenza, hanno comunque appunto dei crediti più dubbi, e in particolare, come hai detto tu, ad esempio Banco BPM ha perso oltre il 5% del proprio valore. Allora andiamo avanti con gli altri titoli oltre al settore bancario, che appunto si commenta con questo cappello di insieme. Per quello che riguarda i titoli oggi in positivo c'è poca roba, perché Milano ha perso l'1,44%, facendo decisamente peggio di Parigi invariata, Francoforte più 0,5%. Quanta è Londra invariata, Dow Jones più 0,16%, euro su dollaro 1,17,60, di positivo Luxottica più 0,80, ricordati più 0,70%. Il debutto di Pirelli il ritorno di Pirelli in borsa, Eleonora, oggi in una giornata in cui poi vedremo anche quali titoli si sono mossi di più. Sì, è stato un debutto, definiamolo freddo, i titoli, sì, erano partiti in calo del 3%, poi in verità hanno recuperato, hanno perso lo 0,46%, hanno chiuso poco sotto il prezzo di collocamento che era di 6,5 euro per azione, hanno chiuso esattamente a 6,47 euro in una giornata in cui il listino comunque ha perso oltre l'1%. Certo, non è stato il debutto magari che altri investitori speravano. Invece, parlando sempre di debutti, è continuato a correre anche oggi GIM, ha fatto più 0,9%, lo scorso lunedì aveva guadagnato oltre il 20% rispetto al prezzo di collocamento, che peraltro era al massimo della forchetta. Appunto, sono casi molto diversi, titoli anche molto diversi. Realizzi invece sul fronte della centrale del latte d'Italia, che dopo l'accordo con Amazon ieri era schizzata meno 6,91%, Softec meno 6,20%, Casta Diva meno 6%, bene invece Gruppo West Italia più 27%, Landi Renzo più 12%, Ambro Immobiliare più 6,80%, Biancamano più 6,70% e Sabaf più 6%. In una battuta, Moncler. Sì, Moncler oggi perdeva durante la seduta oltre il 3%, ha chiuso meno 2,6%, quindi un po' meglio di quanto faceva durante la giornata. In questo caso è stata penalizzata da un report, diciamo, molto critico espresso da Mediobanca. Mediobanca fondamentalmente crede nella strategia della società, nella forza del brand, però dice che i titoli hanno corso troppo, da inizio anno hanno fatto più 47%, negli ultimi 12 mesi più 60%, e quindi forse è il momento di prendere profitto. Grazie, grazie Eleonora Micheli. E adesso andiamo invece sull'altro tema, che è un tema che, insomma, oggi apre la pagina del Sole 24 Ore, la prima pagina del Sole 24 Ore. Mi riferisco allo spesometro. Io non so cosa stia capitando, ma dopo quello che già era successo, nuovo caos per i commercialisti. Mi correggo, la centrale del latte l'accordo l'ha fatto con Alibaba, ci mancherebbe, ho detto Amazon, ma Alibaba, ci mancherebbe. Nuovo caos, sembrava quasi tutto risolto, invece è comparsa sugli studi professionali, sui monitor di molti studi professionali di commercialisti, la parolina file scartato, il tutto senza motivazione. Il nuovo intoppo coinvolge i cosiddetti gestionali, cioè i software acquistati dai professionisti per eseguire le comunicazioni IVA. La stessa agenzia delle entrate ha avvisato la SOGEI, al vertice al Ministero dell'Economia e Finanze con l'amministratore delegato della SOGEI si è deciso che tutti coloro che si sono visti scartare gli invii effettuati tra le 17 di lunedì e le 10.30 di ieri senza l'indicazione dell'errore commesso dovranno rinviare i dati. I rifiuti non motivati che si erano già verificati in precedenza. Sentiamo su questo la confusione che sta, diciamo, in qualche modo paralizzando i commercialisti. Lo ha spiegato Guido Beltrame, consigliere dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, alla nostra Anna Marino. Lo spesometro è l'invio di tutti i dati contenuti nelle fatture emesse e ricevute da parte dei contribuenti. È uno strumento che già in passato esisteva, e quindi qui c'è già il primo dubbio che sorge. I vecchi dati che sono stati spediti probabilmente a questo punto non sono serviti a niente, perché in questa nuova versione è necessario aggiungere altre informazioni che comunque non sono contenute nelle fatture, indicando dei codici inventati dagli informatici che nulla hanno a che fare col diritto tributario. C'è stato un allarme sicurezza, che cosa è successo? Che nei primi giorni o nei primi invii chiunque poteva entrare con un codice fiscale regolare, però vedere poi tutta una serie di posizioni e di informazioni che teoricamente dovevano essere coperte dalla privacy. Oggi SOGEI dice che non c'è stato nessun tipo di violazione, certo è che quei dati comunque per un breve periodo sono stati accessibili a tutti. E questo dà la misura della confusione che regna in questo momento. Allora, lo spesometro non ce la fa partire, l'incasinometro l'abbiamo chiamato. Federica Micardi, buonasera, del Sole 24 Ore. Secondo intoppo a distanza di brevissimo tempo. A questo punto che cosa raccontiamo agli ascoltatori, che sono sia commercialisti che contribuenti, quindi clienti dei commercialisti? Allora, notizia delle 5, comunicato stampa del Ministero dell'Economia, che parla della proroga al 16 ottobre. No. Padoan ha firmato il decreto, che ora è alla firma di Gentiloni. Quindi, questa è la prima notizia di oggi. Quindi, commercialisti, seconda, respirate fino al... Mi dici la data? Lunedì 16 ottobre. Lunedì 16 ottobre. È la quarta proroga, potrebbe non essere l'ultima. Ti prego, non gufare, se no devo ritirare fuori il gufo che non usiamo da un po' di anni. Però, visto l'andazzo, ma chi glielo fa il software alla SOGEI? No, adesso la domanda non è una battuta, perché quattro volte che si blocca? Ma in realtà Stanno usando una struttura, lo SDI, che era stata pensata per un certo numero di traffico, intorno al 500.000, mi sembra 500.000 dati in un arco temporale medio. Adesso viene usato per inviare circa 2 miliardi di dati in un arco temporale breve. Ecco, che forse si sarebbero verificate delle difficoltà, delle concentrazioni di dati, era presumibile, però insomma io non sono in effetti il calcolo, neanche figurati io le tasse le pago e basta, però dico, se un software sviluppato per 500.000 di dati, di traffico, guarda, e adesso ne viaggiano 2 miliardi, forse non era sviluppato però diciamo gestiva, che era stato usato in maniera senza problemi per una massa di dati molto minore, quindi come dire, è stato un po' un azzardo forse, evidentemente. Beh, insomma, adesso non si può dare risultati. La colpa stavolta ai commercialisti, si continua a bloccare questo software, ti esce adesso l'ultima chicca, appunto, che ti esce la scritta file scartato e tu non sai perché, pensi che ci sia un provvedimento ad personam contro di te, in realtà no. Quindi 16 ottobre, ma ti sento scettica nel salutarti sul fatto che possa non essere l'ultima rinvio? No, beh, la cosa è questa, adesso... oggi abbiamo scritto che le cose inviate e scartate senza un errore specifico devono essere rinviate, notizia di ieri sera. Oggi si sta aspettando una nota tecnica delle entrate, perché forse non è proprio così, forse non devono essere rinviate, però non è ancora chiaro. Ecco, allora, la cosa, per parafrasare Besozzi, l'unica cosa certa qui è che è un caos. Cari commercialisti in ascolto, lettori del Sole 24 Ore, ascoltatori, contribuenti tutti, abbiamo capito che nulla è stato deciso se non un rinvio al 16. Seguite con attenzione il Sole 24 Ore, mi viene anche facile dirlo, perché evidentemente se stasera si saprà se occorre o no rinviare i dati. Mi stanno scrivendo, cara Federica, alcuni commercialisti a un passo dall'esasperazione. Ho perso 2 settimane su questa cosa dello speedometro, ho capito. Un altro mi scrive, insomma, se lei è in canale vacanziere di Ferragosto su una mulattiera è normale un leggerissimo intoppo, purtroppo è quello che, da quello che abbiamo capito, è successo. Temo che riavremo, spero di no, sul tema Federica Micardi, che intanto ringrazio. Traffico, e poi vediamo di chiudere con una buona notizia, non per anticipare quelle post classifica, ma perché c'è un investimento importante sia di carattere sociale che di carattere architettonico e culturale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Grazie a tutti quelli che continuano a scriverci il buon compleanno. Alcuni hanno 22 anni adesso, mi dicono, non so cosa ascoltassero a 4 anni. Ecco, insomma, ma è bello vedere anche che alcuni sono diventati maggiorenni con noi. Traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento Focus Economia. Allora, ultima parte del programma. È bello chiudere con notizie positive se si festeggia un compleanno, se ci sono le notizie positive. Già invece il raffronto abbiamo fatto in apertura tra com'era l'economia e l'Italia nel 99 e com'è adesso, insomma, si prestava più di una marcordia, anche qualche rimpianto e qualche autocritica. Vorrei appunto chiudere su questo perché, come annunciato, c'è un'iniziativa importante del gruppo Generali che riguarda il tema sociale e quindi le persone più svantaggiate, ma riguarda anche il tema, diciamo, artistico e culturale, mecenatismo, e quindi Venezia, le procuratie vecchie. Grazie all'amministratore delegato Generali, Philippe Donè. Buonasera. Buonasera e innanzitutto auguri di compleanno, del 18esimo compleanno alla radio, complimenti. Grazie, grazie, se poi volete investire su Radio 24 noi siamo disponibilissimi, no, a parte gli scherzi, grazie dottor Donè. Allora, voi oggi avete lanciato il piano, lo dico già a chi scrive, delle Generali, parleremo in un'altra intervista, io qui voglio parlare dell'investimento. Avete lanciato il piano di Human Safety Net, che cos'è? E poi anche magari quello di investimento culturale, cioè riuscire a restaurare tutto l'edificio, le procuratie vecchie di San Marco. Partiamo da The Human Safety Net. Sì, allora, Human Safety Net è un per definizione è un network di persone che hanno voglia di aiutare altre persone. Noi siamo il promotore, saremo il gestore, l'organizzatore di questo grande network che deve essere un network mondiale. Quindi abbiamo identificato dei temi di azione per aiutare rifugiati, famiglie disagiate, bimbi che nascono con la malattia dell'asfissia, e quindi vogliamo contribuire a migliorare la vita di queste persone grazie all'impegno dei nostri dipendenti, dei nostri agenti, dei nostri clienti e di tutti coloro che avranno voglia di partecipare a questo network, perché è un network, quindi non è una cosa chiusa, è una cosa aperta. Poi il valore del network è il valore delle persone che partecipano al network, quindi noi siamo il promotore, abbiamo scelto Venezia come centro di questo network perché Venezia è una città universale, aperta sul mondo, come lo è questo Human Safety Net. Sì, tra l'altro l'asfisia neonatale, se ne è occupata ahimè delle volte anche la nostra Nicoletta Carbone, è un tema delicatissimo perché ne soffrono 30.000 bambini all'anno in Europa, di cui purtroppo 5.000 muoiono, e 150.000 bambini nella sola Asia, e anche questo è l'obiettivo del... Assolutamente, noi pensiamo che con un po' di prevenzione organizzata bene riusciremo a salvare delle vite e a ridurre il rischio di morte. Quindi questo Human Safety Net è nello stesso tempo ambizioso e nello stesso tempo modesto, perché non è che abbiamo la pretensione di voler cambiare il mondo, però vogliamo cambiare, migliorare la vita di alcuni rifugiati, di alcune famiglie, di alcuni bambini e di salvare la vita di alcuni bimbi. Questo mi sembra nello stesso tempo ambizioso e modesto. Ambizioso e modesto, beh, insomma, due belle qualità che non sono un simbolo. Dottor Donè, l'investimento invece nelle procuratie vecchie rientra, ben venga, no? Invece nell'alveo degli investimenti fatti da grandi gruppi per valorizzare il patrimonio culturale e artistico, in questo caso italiano. Le procuratie vecchie sono la sede storica del vostro primo ufficio a Venezia, le generali nascono, complice anche l'impero austro-ungarico, a Trieste, ma Venezia, i due poli sono sempre stati Trieste e Venezia. Assolutamente, c'è una parte, diciamo che la parte italiana, il cuore italiano delle generali è Venezia, perché come lo dice lei, siamo nati insieme nello stesso tempo a Trieste per la parte internazionale, ma a Venezia per la parte italiana. Quindi ovviamente le procuratie vecchie e la Piazza San Marco sono il cuore non solo della città, ma anche delle generali. E giustamente noi abbiamo cercato qual era la casa migliore per ospitare Human Safety Net, ci è sembrato che giustamente questa casa ce l'avevamo, che era le procuratie vecchie, per alcuni motivi, perché le procuratie vecchie rappresentano bene le generali, ma anche Human Safety Net, e perché volevamo dare una nuova vita lavorativa alle procuratie vecchie. Le procuratie vecchie sono rimaste vuote e chiuse per tanti anni, per troppi anni, e quindi ormai grazie a questa nuova vita lavorativa dovuta al Human Safety Net, le procuratie saranno piene di attività lavorativa, che sarà un'attività produttiva, non produttiva di soldi, ma produttiva di benessere per le persone. Sì. E poi non saranno più chiuse, perché abbiamo deciso di aprire le procuratie e la casa di Human Safety Net a tutte le persone. Quindi, come lei lo sa, ci sono decine di milioni che vengono ogni anno a Venezia, a visitare Piazza San Marco, e saranno benvenute a visitare Human Safety Net, e ovviamente spero che avranno voglia di partecipare al network. Allora, in bocca al lupo al progetto, intanto soprattutto di Human Safety Net, e poi anche, insomma, del recupero che questo progetto permette delle procuratie vecchie di Venezia. Grazie all'amministratore delegato delle generali Philippe Donet. Grazie a lei, arrivederci. E di nuovo grazie a tutti gli ascoltatori per gli auguri per questo 18° di Radio 24. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.